Il pomeriggio seguente anche Laura uscì a passeggio. Era una giornata calda, così calda e inerte che sembrava domenica. Non poteva fare di meglio che seguire l'esempio dei selvaggi Robinson Crusoe, salire in cima a una collina e dire «Oh!». Nessun pio selvaggio avrebbe mai potuto prorompere in un «Oh!» più devoto del suo. La cima della collina infatti era disseminata di fiori dal profumo mielato e quel profumo, unito al profilo austero del paesaggio, era squisitamente dolce e sorprendente. Laura trovò una piccola conca erbosa e vi si sedette, appoggiandosi al corto e compatto schienale verde. Comodamente nascosta in quell'intimo rifugio, caldo e tranquillo, stava quasi per abbandonarsi al sonno, quando una figura che si muoveva sul pendio della collina di fronte a lei catturò la sua attenzione. Gli occhi grigi di Laura avevano una vista molto acuta, sicché presto riconobbe il passo lungo e l'andatura dondolante. Il gigante solitario era Titus. Si prova un divertente senso di superiorità nel guardare senza essere visti. Laura si raddrizzò sul suo sedile e si mise a osservare attentamente Titus. Nel mezzo di quella superficie imperturbabile sembrava un piccolissimo scarabocchio umano. Con un pendio tanto vasto su cui girovagare, Titus, che si manteneva così scrupolosamente sul sentiero, aveva un che di comico. Faceva l'effetto di un acrobata che cammina sulla fune. Più avanti, il viottolo si perdeva in un intrico di rovi e stele di digitale che segnavano i confini del Bosco della Follia, una piantagione di larici abbattuti durante la guerra. Sulla cartina di Laura la località era ancora colorata di verde. In una delle sue prime esplorazioni aveva cercato quel bosco e non trovandolo si era sentita defraudata. Ora i suoi occhi si soffermavano sui rovi con fastidio, davano un senso di disordine e sfiguravano il versante della collina come una manciata di intonaco rustico gettato su un muro perfettamente liscio. Tornò indietro con lo sguardo per vedere come procedeva Titus e fu colpita dal suo strano comportamento. Pur tenendosi sul sentiero, camminava quasi come un ubriaco o un idiota, ora affrettando il passo, ora riportandola a una posata lentezza che certo non corrispondeva alla sua andatura naturale. Tutto d'un tratto si mise a correre. Correva sempre più veloce, i piedi a mal partito sulla superficie scivolosa. Raggiunse la piantagione e dai suoi continui salti e inciampi Laura ricavò un'idea dell'asperità del terreno. Arrivato a metà di quello che una volta era stato il bosco, Tito si incespicò e cadde a terra a lungo disteso. «Una tana di coniglio!» disse Laura. Si sarà storto la caviglia. Ma prima che l'ombra di un rimorso potesse mitigare la sdegnosa perplessità con cui era stata testimone di quelle ridicole movenze, Titus si rialzò e riprese a comportarsi più stranamente che mai. Non c'era storta la caviglia che potesse giustificare i movimenti dissennati con cui colpiva se stesso e l'aria. A giudicare da come abbassava improvvisamente la testa, saltava da parte, avanzava minaccioso e si ritraeva spaventato davanti a un nuovo attacco, sembrava cercasse di respingere un'invisibile gragnola di cazzotti. Infine se la diede a gambe, dibattendosi, vacillando e gesticolando come se tutto il suo corpo mugghiasse di dolore e di paura. Raggiunta la sommità della collina, per un momento la sua sagoma si stagliò contro il cielo in un ultimo accesso di dolore, dopodiché scomparve. Laura ebbe l'impressione di allontanare l'occhio dalla lente di un cannocchiale. Lasciò vagare lo sguardo sul paesaggio, aggrottando le sopracciglia, scrutò attentamente la campagna da destra a sinistra, incapace di credere ai propri occhi. Dolcemente ignara, la collina che le stava di fronte le offriva il sospetto conosciuto. La valle era immersa in un religioso silenzio. Come l'aria imperturbata aveva accolto gli strepiti e le imprecazioni di Titus, perché era ovvio che avesse strepitato e imprecato, senza preoccuparsi di trasmetterli alle sue orecchie, così la sua vista aveva registrato quella violenta pantomima senza preoccuparsi di mettere in allarme il cervello. Laura non poteva ragionare su ciò che aveva visto. A stento riusciva a provare un po' di curiosità, ma non c'era verso di sentire compassione. Quello spettacolo sembrava pensato solo per sorprendere e divertire come una mascherata. Eppure, lei lo sapeva, quello non era il modo di fare di Satana. Non era sua abitudine concedere ai suoi servitori certe pagliacciate gratuite. Lui era superiore alla debolezza che spinge gli uomini ad agire per divertirsi. E se aveva fatto esibire Titus in una danza sul pendio come un gatto sui mattoni bollenti, c'era da star certi che quella mossa rientrava in un piano preciso. Lei doveva fare la sua parte seriamente, invece di comportarsi come una mera spettatrice. se non altro per buona educazione, doveva scoprire che cos'era successo, tanto più che Titus poteva aver bisogno delle sue cure. Si alzò e si incamminò verso il paese. Quasi sicuramente, pensò, Titus era tornato a casa. Se anche non aveva fatto tutta la strada di corsa, ormai doveva aver avuto il tempo di calmarsi e superare il peggio. Una sorta di pudore le impediva di assistere con troppa tempestività allo sgomento della sua vittima. Un conto era Titus, non ancora minacciato dal pericolo. Titus che invadeva la sua quiete e calpestava la sua serenità. Un conto era Titus che si contorceva sul fuoco del suo risentimento. Mentre camminava per andare ad accudirlo, le fece pena. Per una zia, un nipote tormentato dal diavolo meritava altrettante premure ziesche che un nipote malato di morbillo. E Lora non prendeva le sue attuali sofferenze più sul serio di quanto avesse preso quelle passate. Col tempo e con un cambiamento d'aria era sicura che si sarebbe rimesso perfettamente. Quanto alla sua parte di responsabilità, non si sentiva affatto in colpa. Lucifero, bontà sua, le era venuto in aiuto e pensandoci bene non vedeva chi altro avrebbe fatto lo stesso. La tradizione, l'opinione pubblica, la legge, la chiesa e lo Stato, tutti avrebbero scosso la testa imponente davanti alla sua supplica e l'avrebbero riconsegnata alla schiavitù. Quando arrivò a Great Mop erano circa le 5. Mentre svoltava sul viottolo che attraversava il giardino di Mrs. Leek, Titus balzò fuori dalla veranda. «Eccoti qui!» esclamò. «Siamo venuti a farti compagnia per il tè!» Vide che Titus non era solo. In veranda, intenta a giocare con il gattino, c'era Pandora Williams, quella stessa Pandora Williams che Titus aveva invitato a suonare la ribecca all'esposizione floreale. Prima che Lora potesse darle il benvenuto, Titus aveva già ricominciato con le sue declamazioni. «Che pomeriggio abbiamo passato! Che avventure!» Prima sono caduto su un vespaio e poi mi sono fidanzato con Pandora. Vespe! Ecco cos'era stato! Le vespe erano i nemici invisibili che lo avevano assalito e sbaragliato sulla collina. Oh, Belzebù, signore delle mosche! Ma perché adesso voleva sposare Pandora Williams? Stavo passeggiando nel bosco della follia. Ho inciampato e sono caduto proprio sopra un vespaio. Dio mio, credevo di morire. Mi sono entrate nelle orecchie, mi sono scese giù per il collo e mi si sono infilate su per i calzoni. Ne avevo dappertutto, più che le bollicine nel seltz. Per salvarmi mi sono messo a correre e ho corso quasi fino a casa, ma la maggior parte delle vespe sono venute con me. Vuoi perché ce l'avevo addosso, vuoi perché mi inseguivano. E quando sono sbucato come un pazzo sulla strada del paese, gridando esausto che volevo della cipolla, ad aspettarmi c'era Pandora. «Mi aveva invitata a prendere il tè», disse Pandora con compostezza. «Già, ma l'avevo scordato ed ero uscito per una passeggiata. Pandora, mi sarei meritato che ti fossi indignata e mi avessi lasciato morire. Non dimenticherò mai la tua generosità, Pandora. In effetti è stato l'elemento decisivo. Non si può non chiedere in moglie una ragazza che ti ha tolto le vespe morte da sotto le ascelle». Lora non aveva mai visto Titus in uno stato di tale eccitazione. Aveva il viso arrossato, parlava a voce alta e le sue pupille erano straordinariamente dilatate. Ma fino a che punto tutto ciò fosse dovuto all'amore e fino a che punto alle vespe e al sortilegio era impossibile a dirsi. E Pandora era anche lei parte del sortilegio, una specie di regina delle vespe la cui puntura era un balsamo mortale? Perché Titus avrebbe dovuto chiederle di sposarlo? E perché Pandora doveva accettare? Erano sempre stati ottimi amici. Lora si voltò a guardare la ragazza per vedere come la stava prendendo. Le guance lisce di Pandora, le lisce ciocche dei suoi capelli neri sembravano diffondere, quiete come un impavido raggio di luna. Ma quando Lora le fece le sue congratulazioni, lei trasalì e rispose dilungandosi nervosamente sul perché e per come fossero approdati lì per il tè. Aveva fatto cadere la tagliera di Titus, che si era rotta. Lora non ne fu sorpresa. Era evidente che le emozioni che il pomeriggio le aveva riservato erano state molto più violente di tutto ciò che Titus aveva sperimentato sul suo parapiglia mentale. Com'era stata brava, pensò Lora, a nascondere per tutto quel tempo i suoi sentimenti e com'era brava a nasconderli anche in quel momento. Per quelle nature delicate, lo sapeva, tagliare e imburrare il pane è sempre un conforto. Pandora accolse con gratitudine il suo invito, coprì di fette 3 bei vassoi e ne avrebbe coperto anche un quarto se non fosse finito il burro. C'erano anche zuccherini e pan pepato. Mrs. Leek doveva aver subodorato un idillio e dimostrò di aver capito la situazione con un tè che era quasi viola, pastoso come una torta nuziale. Così lo definì Titus. Fu una cerimonia assolutamente spartana, ma due ospiti tanto assortiti nelle loro emozioni, Lora avrebbe potuto offrire senza rimorsi anche gallette e acqua calda. Titus parlava incessantemente e Pandora mangiava con la furtiva pervicacia di una cagna che ha i cuccioli da allattare. Nel frattempo Lora osservava i nuovi Mr. e Mrs. Willhouse. Sarebbero stati perfetti, decise. Benché fosse ancora così giovane, Pandora pareva già un ritratto di famiglia e quel tipo di sembianza, quel tipo di carattere cambiano poco negli anni, perché sono indipendenti dal tempo. Ed era innamoratissima di Titus, non c'era dubbio. Mentre lui parlava, lo fissava in viso con la massima attenzione, sebbene avesse l'aria di non sentire una parola di quello che diceva. Anche Titus doveva essere molto innamorato. Nonostante l'assurdità del suo comportamento e il naso gonfio, la felicità gli dava un aspetto quasi romantico. Forse se Laura non riusciva a prenderlo sul serio, era perché da troppo poco l'aveva visto ballare alla musica del demonio. O forse perché, da brava zitella, misconosceva l'autenticità di tutto quanto un uomo potesse dire o fare. Ma sotto sotto sentiva che Titus non era altro che un corteggiatore per procura, l'ambasciatore di un imperioso volere dinastico e che la vera unione si stringeva tra Pandora e Lady Place. Erano comunque molto ben assortiti e questo doveva bastarle. La macchina dell'agnello Pasquale li aspettava per portarli alla stazione. Titus tornava a Londra con Pandora per incontrare la sua famiglia, perché lei si era rifiutata di chiedere da sola il loro consenso. I Willhouse conducevano una vita molto piacevole a Campden Hill ed erano un tipico esempio della migliore società londinese, quasi del tutto indistinguibili da coloro che conducono una vita molto piacevole in campagna. In effetti, che cosa poteva dirsi di più a una vita fuori città che essere a Londra in settembre? Per un attimo Lora temette di dover andare con loro. I due innamorati avevano insistito perché li accompagnasse alla stazione. «Devi venire!» disse Titus. «Ci sono un sacco di favori che devo ricordarmi di chiederti. In questo momento non me ne viene in mente neanche uno, ma me li ricorderò tutti nel momento in cui partirò in treno. Mi succede sempre così». Lora sapeva che era verissimo, tuttavia continuò a rifiutarsi di accompagnarli, finché Pandora fece in modo di prenderla da parte e le disse in un sussurro disperato: «Oh, Miss Willhouse, per l'amor del cielo, venga! Non hai idea di che cosa terribile sia essere lasciati da soli con la persona che si ama!» Allora Lora rispose: «Benissimo, verrò per sdebitarmi!» Il senso dell'umorismo di Pandora riuscì a malapena a produrre il relitto di un sorriso. Salirono in macchina. Non c'era tempo da perdere. L'autista li condusse a tutta velocità per le strade tortuose, suonando incessantemente il clacson. Era una vettura chiusa e i passeggeri sedettero in silenzio perfetto fino a destinazione. Prima che l'automobile si fermasse sul piazzale della stazione, Titus balzò giù e pagò l'autista. Poi prese a guardarsi in giro alla ricerca del treno in preda a una grande frenesia. Ma non c'erano treni in vista, il loro non era ancora arrivato. Tornata sul piazzale, dopo averli salutati alla partenza del treno, Lora scoprì che nella foga Titus aveva lasciato andare l'autista senza pensare a come sua zia sarebbe tornata a Great Mope. Ma non importava, c'era una corriera che partiva per Burleigh alle 8:30 e una volta a Burleigh avrebbe potuto fare la strada a piedi. Aveva dunque 1 ora e mezzo da passare a Wickendon. Un modo assennato di impiegare il tempo sarebbe stato quello di mangiare qualcosa prima di intraprendere il viaggio di ritorno, ma non aveva fame e i caffè pieni di mosche della High Street non la tentavano affatto. Comprò qualche frutto e imboccò una via fiancheggiata da muri di giardino, in cerca di un prato in cui sedersi a mangiare in pace. Ben presto la strada si trasformò in una viuzza trascurata e infine in un sentiero scuro che saliva rapido tra alti cespugli. Una municipale cortesia lo aveva dotato a intervalli irregolari di panchine di ferro saldamente fissate al suolo. Ma nessuno vi si riposava, il luogo era deserto, fatta eccezione per il sciame di moscerini. Quando raggiunse la cima della collina e si ritrovò su un prato senza alberi, l'ora era caldata e senza fiato. Era il posto ideale per fermarsi ad ansimare un po', e dato che non c'erano panchine di ferro a dissuaderla, così fece. Ma dimenticò immediatamente la stanchezza. Tanto singolare era la vista che le si apriva davanti. Il sentiero portava a un piccolo terreno recintato pieno di cipressi, tassi, ginepri accuratamente potati e salici piangenti. Da questo funebre piumaggio spuntava una varietà di minareti, cupole dorate e obelischi. Lora rimase a fissare quel fenomeno, così byroniano nel progetto e così lindo nell'esecuzione, che emergeva in modo tanto sorprendente dal morbido paesaggio delle Chiltern Hills, senza riuscire a spiegarlo. Poi ricordò. Era la follia di Mulgrave. La guida ne parlava e parlava anche del suo creatore, Sir Ralph Mulgrave, il baronetto satanico, il libertino, l'ateo, che beveva da un teschio, che aveva perso al gioco la sua amante e sparato al vincitore, che andava in giro per il Buckinghamshire a cavallo di una zebra e la cui conversazione faceva sfigurare Thomas More. Personaggio eccentrico e perverso, così lo definiva la guida, che aveva sterilizzato la propria memoria col divertimento razionale. In vecchiaia si era divertito a progettarsi un sepolcro che voleva essere la summa delle sue idee eclettiche e pessimiste. Doveva aver passato molte ore su quella collina, pensò Lora, vegliando sui muratori e indicando ai giardinieri i punti in cui piantare i cipressi. Dopodiché si faceva spingere via sulla sua poltrona a rotelle, poiché, con buona pace della guida, Sir Ralph Mulgrave aveva perso l'uso delle gambe quando era ancora relativamente giovane. Poveretto! Come aveva frainteso il diavolo! Le cupole dorate ridondanti brillavano nella luce del tramonto. Nonostante il cattivo gusto, non erano per nulla disdicevoli. Cupole, minareti e cipressi avevano tutti un aspetto lustro e ben curato. Godevano di una rendita garantita. Niente poteva turbare la loro quiete. Il cuore stupido, vanitoso e appassionato, lì sepolto, aveva disposto nel suo testamento una somma di denaro per la loro perpetua manutenzione. Il baronetto satanico, che si faceva beffe della vita eterna e aveva progettato quel luogo a duratura testimonianza della propria miscredenza, aveva trovato il modo di far di se stesso un immortale zimbello. Era davvero ingeneroso. Il morto era stato alla gogna abbastanza lungo. Era ora che la follia di Mulgrave venisse lasciata andare decorosamente in rovina. E invece, proprio in quel momento, stavano potando gli alberi. Ora sentì un fremito di rabbia alla vista di un giardiniere che usciva dal cancello con in mano un cesto e un paio di cesoie. Veniva verso di lei e qualcosa nella sua andatura dinoccolata e furtiva le sembrò familiare. Lo guardò più attentamente e riconobbe Satana. «Come puoi farlo?» gli disse quando fu abbastanza vicino da udirla. Fra tutti, lui era quello che avrebbe dovuto dimostrarsi più compassionevole nei confronti dell'ombra di Sir Ralph. Lui fece finta di non averla sentita. «Le piacerebbe visitare la follia, signora?» chiese. «È una vera curiosità. C'è gente che viene fin qui da Londra». Lora non aveva nessuna intenzione di lasciarsi abbindolare così facilmente. Poteva anche far finta di non riconoscerla, ma lei gli avrebbe rinfrescato la memoria. «Così fai anche il guardiano di cimiteri, oltre che il guardiacaccia?» «Il comune mi ha assunto per potare i cespugli». «Oh, Satana!» esclamò Lora, ferita dal suo modo di giocare sugli equivoci. «Possibile che tu ti nasconda sempre?» Con il gesto di un uomo che finisce sempre per cedere alle donne, lui si arrese e si sedette sull'erba accanto a lei. Lora provò un istante di imbarazzo. Da molto tempo desiderava poter conversare ragionevolmente con il suo padrone e ora che il suo desiderio stava per essere esaudito, non sapeva da dove cominciare. Infine osservò. «Titus se n'è andato. Davvero? Non è stata una partenza un po' frettolosa?» «L'ho incontrato non più tardi di oggi pomeriggio». «Sì, li ho visti. O meglio, ho visto Titus che incontrava te». «Proprio così. È incredibile», aggiunse lui come per anticipare gentilmente il suo pensiero. «Come si possa essere invisibili su questi pendii verdi e spogli o in questi boschi fitti e bruni?» disse Lora con una certa severità. Quella luciferina giocosità non le era nuova. Spesso Aceto faceva lo stesso, sfuggendole di mano con un balzo proprio quando lei voleva prenderlo per chiuderlo in casa. «O in questi boschi fitti e bruni», convenne lui. «Il bosco della follia è particolarmente folto». «Bosco una volta, bosco per sempre». «Bosco una volta, bosco per sempre». Le parole suonavano sincere e Lora rimase seduta in silenzio a ponderarle. Il pio Asa poteva abbattere tutti gli alberi, ma per quanto riguardava il diavolo li abbatteva invano. bosco una volta, bosco per sempre. Dove lui sedeva, gli alberi si sarebbero affollati a fargli ombra. E la gente che passava in piena luce avrebbe sentito voci lente sopra la testa, mentre un gelo improvviso si sarebbe abbattuto sulla loro carne. Allora, siccome lei avessero avuto un'inclinazione naturale per il demonio, si sarebbero soffermati ad ascoltare quei sussurri, con gli occhi socchiusi e i sensi sopiti. Se invece erano persone per bene, come Harry e Caroline, si sarebbero messi a parlare a voce un po' più alta e avrebbero affrettato il passo. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Chissà come il pensiero del diavolo sospingeva sempre la sua mente verso le sacre scritture. E restava un riposo anche per l'altro popolo, il popolo di Satana. Stretto in quella salda memoria, nulla di selvatico poteva mai esserne scrollato, nessun nascondiglio segreto poteva andare distrutto, nessun ritrovo di ombre di silenzio essere svelato. Lo scalo merci di Paddington, ad esempio, un luogo barbaro, sacro e incantato come non mai. Nessun monumento umano, nessuna manomissione poteva avere la meglio sullo spirito di Satana. Il Vaticano, il Crystal Palace e tutti gli indi alveari messi in fila dall'uomo, Balmain, Fulham e Cromwell Road, lui vedeva attraverso di essi ed essi cadevano come castelli di carte. I mattoni tornavano polvere, le travi d'acciaio affondavano stridendo nelle viscere della terra e la legna veniva restituita ai boschi fantasma. I lupi ululavano per le strade di Parigi, le volpi giocavano nella sala del trono di Schönbrunn e nella cantina di Apsley Terrace il mammut si rigirava lento spianando la sua tana. «Allora non c'era bisogno di venire fin qui per incontrarti», esclamò. «Sei venuta per questo?» «Non sapevo che fosse per questo. Pensavo di essere venuta per stare in campagna e smettere di fare la zia». «Titus è venuto per scrivere un libro sui Fuseli e divertirsi?» «Titus, non posso credere che tu volessi lui!» «Eppure credi che volessi te!» Lora, presa la sprovvista, rispose con sincerità. «Sì!» Credo che tu mi abbia voluta, anche se proprio non so perché. Un sorriso vagamente malevolo comparve sul viso del diavolo. Per una ragione o per l'altra la sua modestia sembrava averlo irritato. Qualcuno potrebbe dire che ti sei buttata all'arrembaggio. Qualcun altro potrebbe dire che mi davi la caccia per divorarmi, ribatte lei. Esattamente. Quella notte ho persino ruggito, ma tu dormivi. Solo le colline mi hanno sentito trionfare sulla mia preda. «Vorrei poterti credere», disse Lora. «Anch'io vorrei che tu mi credessi», rispose lui in tono affabile. «Ti sentiresti così serena, così importante. Invece non mi crederai, anche se non è inverosimile quanto immagini». Lora si distese sull'erba e appoggiò la testa su un braccio. «Mai potrei sentirmi più serena di così, ora che Titus se n'è andato», disse. «E quanto all'importanza, non voglio mai più sentirmi importante. Ne ho avuto abbastanza quando ero una zia». «Beh, ora sei una strega». «Sì, è proprio così, non è vero?» «Irrevocabilmente». La sua voce aveva un tono così perfettamente serio che Lora sospettò nascondesse una sfumatura di divertimento. Soltanto un attimo prima, quando aveva scherzato, lei aveva pensato che sotto le sue parole si nascondesse un significato più profondo. Aveva quasi creduto che la sua voce avesse ruggito nel temporale. Se quella volta la sua voce non era artefatta, lei non l'aveva sentito, le aveva chiuso le orecchie con il sonno. «Perché sospiri?» chiese lui. «Ho sospirato. Sono perplessa, tutto qui. Vedi, anche se sono una strega e tu sei qui di fianco a me, me lo dici, non riesco a capacitarmene, a rendermene conto. Sembra tutto perfettamente naturale». «È perché sei in mio potere. Nessuno dei miei servitori può provare rimorso, dubbio o sorpresa. Puoi stare tranquilla allora, non mi sfuggirai più, perché non potrai più desiderare di sfuggirmi». «Sì, posso ben crederlo, sono sicura che non desidererò mai di sfuggirti, ma tu sei un padrone misterioso. E tu mi sembri un servitore un po' esigente, ho assunto le sembianze di un giardiniere, sono seduto sull'erba di fianco a te, gradirei una delle tue mele, se permetti, sono un frutto per cui ho una passione speciale. Sto facendo tutto quello che è il mio potere per essere cordiale e rassicurante. Cos'altro vuoi?» «È proprio di questo che mi lamento. Sei troppo normale per essere vero. Sembriamo usciti dalle conversazioni di Goethe con Eckermann». «No, se sono davvero una strega, trattami come una strega. Soddisfa la mia curiosità. Parlami di te». Prima dimmi cosa pensi tu, rispose lui. Penso, cominciò cautamente Lora, dato che lui nascondeva le carte e non era il caso che lei scoprisse le sue. Penso che tu sia una specie di cavaliere nero che soccorre gentildonne decadute. Non dimenticarti che ci sono anche gli stregoni. Non riesco a prenderli altrettanto sul serio, non come categoria. Sono le streghe che contano. Noi abbiamo più bisogno di te? Le donne hanno una fantasia così fervida ed esistenze così monotone. Il loro piacere per la vita finisce prestissimo, dipendono sempre da qualcun altro e questo per gli altri diventa presto una gran segatura. Mi capisci? Satana taceva. Lora riprese a parlare lentamente, aggrottando le sopracciglia nello sforzo di chiarire a se stessa e a lui il pensiero che aveva in mente. Ecco, quando penso alle streghe, mi sembra di vedere in tutta l'Inghilterra, in tutta l'Europa, tante donne che vivono e invecchiano, diffuse come le more selvatiche altrettanto trascurate. Le vedo, mogli e sorelle di uomini rispettabili, uomini di chiesa, fabbri, agricoltori e puritani. In luoghi come il Bedfordshire, sai, il tipo di campagna che si vede dal treno. Le vedo com'erano, come sono. Tirano sui bambini, mandano avanti la casa, appendono gli strofinacci lavati ai cespugli di Ribes e per distrarsi si scambiano le loro chiacchiere stupide e ascoltano gli uomini che parlano tra uomini nel modo in cui loro parlano e le donne ascoltano. Un modo molto diverso da quello in cui le donne parlano e gli uomini ascoltano, sempre che ascoltino. E tutto questo mentre le fanno sprofondare sempre più nello squallore. Quando se c'è una cosa che tutte le donne odiano, essere considerate squallide. Poi alla domenica si mettono i vestiti senza pretese, i cappellini e colletti bianchi inamidati, almeno le puritane lo facevano, e vanno a piedi attraverso i campi fino alla cappella per ascoltare il sermone. Peccato e grazia, Dio e il... Si fermò appena in tempo. E San Paolo... Tutte cose da uomini, come la politica o la matematica, per loro nient'altro che sottomissione e capelli da intrecciare. E sulla via del ritorno, altri discorsi da ascoltare, discorsi sul sermone, sulla guerra o sui combattimenti di galli. Poi arrivata a casa ci sono le patate da cucinare per la cena. Può sembrare una piccineria lamentarsi di tutto questo, ma ti assicuro che questo genere di cose ti si deposita addosso come una polvere impalpabile e nel giro di poco tempo la polvere si trasforma in anni e anche loro ti si depositano addosso uno dopo l'altro. Tu sei immortale, non è vero? Indubbiamente questo è molto peggio, ma anche nel depositarsi dei giorni c'è una specie di terribile, tetra immortalità. E le donne pensano a come erano giovani un tempo. Vedono le nuove ragazze, giovani come sono state anche loro, eppure sorprendenti, come se nessuna fosse mai stata giovane, come alberi a primavera. Loro invece sono alberi verso il finire dell'estate, appesantiti e impolverati, e nessuno trova più sorprendenti le loro foglie, né le nota finché non cominciano a cadere. Se potessero restare passive e inosservate non avrebbe importanza, invece devono essere attive, e ciò nonostante rimanere inosservate. Fare, fare, fare, finché la pura abitudine le rimprovera come una massaia e le costringe ad alzarsi anche quando potrebbero star sedute sulla soglia a pensare, per fare, ancora per fare. Lora si interruppe senza fiato. Non aveva mai fatto un discorso tanto lungo in vita sua, né parlato con tanta passione. Si rendeva appena conto di ciò che aveva detto e si sentiva stordita e spaesata, come se l'avessero lanciata in aria e stesse improvvisamente cominciando a volare. Il diavolo era silenzioso, assorto a terra, sembrava che tutto quel ragionamento lo avesse toccato. Allora riprese a parlare per paura di cominciare a vergognarsi di aver detto tanto. «È vero che si può attizzare il fuoco con un candelotto di dinamite senza che succeda nulla?» Credo di averlo sentito alle conferenze scientifiche a cui accompagnavo le mie nipoti. Comunque, se non è vero per la dinamite, lo è per le donne. Ma le donne lo sanno di essere dinamite e non vedono l'ora che si verifichi l'esplosione che renderà loro giustizia. Ad alcune può capitare la religione e così sono a posto, immagino. Alle altre, però, e sono tante, cos'altro resta se non la stregoneria? Quella, sì, sembra loro una soluzione vera. Anche se gli altri continuano a considerarle quelle di sempre e vanno avanti a usarle per attizzare il fuoco, Le donne sanno in cuor loro quanto sono pericolosi, inestimabili, straordinarie. Anche se non ricorreranno mai alle loro arti, sanno di averle lì, pronte. Ci sono rispettabili donne di campagna che tengono nascosti in un angolo della cassettiera gli abiti con cui vogliono essere sepolte e quando hanno bisogno di un po' di conforto vanno a guardarli e pensano che per una volta almeno meriteranno di essere vestite con ogni cura. La strega, invece, conserva gelosamente il suo manto di oscurità, il suo vestito ricamato di segni e pianeti, qualcosa che vale certo più la pena di guardare. E pensa Satana, che complimento le fai andando a caccia della sua anima, tendendole gli agguati, seguendola in tutte le sue tortuosità. Astuto, paziente, dissimulato come un gentiluomo a caccia di tigri. La sua anima, quando nessuno degnerebbe di uno sguardo nemmeno il suo corpo. E sono tutti così abituati alla sua presenza, così sicuri di lei. Dicono, cara Lolly, cosa le regaliamo quest'anno per il suo compleanno? Magari una boule per l'acqua calda, oppure una bella sciarpa di pizzo nero, o un cestino da lavoro nuovo? Quello vecchio va quasi a pezzi. Tu invece le dici, vieni qui, uccellino mio, ti darò la buonanotte e perigliosa in cui spiegare le ali, bacche velenose di cui nutrirti e un nido ad altezze vertiginose di ossa e spine dove nessuno potrà arrampicarsi. Ecco perché diventiamo streghe, per mostrare il nostro disprezzo per chi finge che la vita sia un luogo sicuro, per soddisfare la nostra passione per l'avventura. Non è volontà di nuocere, né cattiveria. Beh, forse cattiveria sì, la cattiveria è una cosa che piace a molte donne. Ma certamente non abbiamo il desiderio di appestare il bestiame, né di far sputare spilli a bambini deformi o di, come si dice, insterilire il talamo. Certo, quando si ha il potere di farlo ci si può anche dare a questo tipo di cose per legittima difesa o anche solo per divertimento, ma è un modo di fare la strega da quattro soldi, come si fa la donna di casa. È la magia nera, è la magia bianca, non è meglio. Non si diventa strega per fare del male a questo e quello e nemmeno per fargli del bene come dame di carità a cavallo di una scopa. È proprio per fuggire a tutto questo, per avere una vita propria e non un'esistenza elemosinata dagli altri. Scarti caritatevoli dei pensieri altrui, tanti grammi di pane di vita rafferma al giorno. Il vito quotidiano del più albergo è scientificamente calibrato in modo da garantire la sopravvivenza. Quanto alle streghe, che sanno esprimersi solo per mezzo di spilloni e talami steriliti, sono la conseguenza delle vite deprimenti che hanno avuto. Pensa a Miss Carlow, la tipica strega, direbbe la gente. In verità è la tipica zitella, tanto a posto che si era logorata a furia di rendersi utile a chi non aveva bisogno di lei. Se te la fossi presa quando era più giovane, non si sarebbe mai ridotta così. Sembra che tu lo sappia lunga sulle streghe, osservò Satana. Ma stavi per dirmi che cosa pensi di me? Laura scosse il capo. Avanti, incoraggiò lui. Hai paragonato a un cavaliere errante, molto carino. E credo che tu mi abbia paragonato anche a un cacciatore, una specie di cacciatore di Frodo, che vaga furtivo per i boschi col calar delle tenebre. Meno lusinghiero per la mia vanità del cavaliere errante, ma più preciso, direi. Oh, Satana, perché mi spingi a parlare quando conosci già tutti i miei pensieri? Lo faccio perché li conosca tu. Va avanti, Laura, non essere sciocca. Che cosa pensi di me? Non lo so, rispose lei sinceramente. Non credo di pensare qualcosa. So solo lanciarmi in similitudini infervorate. Tu sei oltre. I miei pensieri sprizzano da te come nella teoria della forza centrifuga. E dopo questo incontro sarò più confusa che mai, perché tu mi piaci tanto, ti trovo così gentile e comprensivo. Ma è ovvio che non puoi essere soltanto un'istituzione benefica. No, io devo essere la tua strega alla cieca. So che non prendi altrettanto sul serio gli stregoni, ma potresti scoprire che il loro punto di vista è illuminante. Dato che si tratta di un problema spirituale, perché non consulti Mr. Jones? Povero Mr. Jones, Laura scoppiò a ridere. Ma se non è neanche padrone della sua anima. Bada, hai dimenticato che l'ha venduta a me? E allora perché tu l'hai ipotecata a Mr. Gordon? A Mr. Jones non è nemmeno permesso di partecipare al sabba. A volte sei un po' ottusa. Non hai pensato che qualcuno potrebbe anche condividere la tua schizzinosa antipatia per il sabba? Se è per questo, non ci vai nemmeno tu. Come lo sai? Non cercare di avermi per te, Laura. Tu non sei la mia unica conquista e io non sono un padrone umano che fa favoritismi fra i suoi servi. Siete tutte anime che cadono nella mia rete e nient'altro. Lora non si sentiva troppo avvilita dopo quella reprimenda. Dunque era vero ciò che aveva letto nel rapporto felice che esiste tra il demonio e i suoi servitori. Se Ifan Makalsin aveva rimproverato Lucifero, beh, in caso di necessità poteva farlo anche lei. Altre cose che aveva letto potevano essere vere, pensò, cose che fino a quel momento era stata propensa a rifiutare. Un padrone così tollerante che non faceva favoritismi fra i suoi servitori poteva davvero partecipare ai Sabba, poteva addirittura mangiare il sanguinaccio a un picnic senza per questo perdere la propria dignità. Quel giovane insolente al Sabba, osservò Lora, so che non eri tu. Chi è? È uno di quei brillanti giovani scrittori, rispose il diavolo. Credo che Titus lo conosca. Mi ha venduto l'anima a patto di poter essere una volta alla settimana il personaggio indiscutibilmente più importante a una festa. Perché non ti ha venduto l'anima per diventare un grande scrittore? Le feste sarebbero venute da sé. Ha preferito prendere una scorciatoia, capisci? Non capiva, ma era troppo orgogliosa per insistere, visto poi che Satana le stava sorridendo come a un agnello di letto. E Mr. Jones che cosa? Adesso basta! Puoi chiederlo direttamente a lui, quando ti farai dare lezioni di demonologia. Puoi davvero credere che Mr. Gordon mi lascerebbe a tu per tu con Mr. Jones anche solo per prendere lezioni di ricamo? Farebbe capolino dalla finestra dicendo: per quanto ancora facciamo aspettare le signore dell'associazione? Piuttosto che: vorrei sapere cosa vuol fare il reverendo di quell'etame, o ancora: lo so, vero che la ragazza del Vaccaro sta per andarsene da un momento all'altro? Dopodiché se lo porterebbe giù nell'orto e lo sgriderebbe. Mi piange il cuore per quel povero uomo. Mr. Jones, disse Satana in tono contegnoso, avrà la sua ricompensa in un'altra vita. Lora rimase in silenzio, fissava la follia di Mulgrave con un'espressione che sentiva pensosa, ma la sua mente era vuota. Un argomento delicato, forse è di cattivo gusto da parte mia scherzarci sopra. Un moscerino le si posò sul polso. Lora lo schiacciò. Morto! Disse Satana. Quella parola cadde dentro di lei come un ciottolo lanciato in uno stagno. L'aveva sentita tanto spesso e ora la sentiva di nuovo. Le solite onde di pensieri sgorgarono dalla sua mente in altrettanti cerchi concentrici, onde di pensieri spaventati che si propagavano in tutte le direzioni, facevano oscillare le ombre di oggetti familiari, confondevano le immagini nette di alberi e nubi, si allargavano l'uno dopo l'altra, ciascuna più fiacca, più impercettibile di quella che l'aveva preceduta, finché lo stagno tornò immobile. Forse c'erano domande a cui neppure il diavolo poteva rispondere. Lora gli rivolse gli occhi carichi del loro interrogativo. Satana si era alzato in piedi, raccolse la cesta, le cesoie e si preparò ad andarsene. «E ora?» chiese Lora. Lui annuì e sorrise. Lora si alzò a sua volta e cominciò a scuotersi la polvere della sottana. Poi con un bastoncino scavò una piccola fossa e dopo averci infilato il sacchetto che prima conteneva le mele, lo seppellì con la terra pareggiando bene la superficie. Quest'operazione le richiese un po' di tempo, cosicché quando si guardò intorno per salutare Satana, lui era già scomparso. Vedendo che se n'era andato, Lora si mise a sedere, perché voleva riflettere su di lui. Era stata una conversazione piacevole, anche se aveva parlato quasi sempre lei. La chiazza d'erba schiacciata al suo fianco mostrava il punto in cui si era seduto e abbandonato in terra c'era il fiore di raperonzolo che aveva tenuto in mano. L'erba su cui un corpo ha lasciato la sua sagoma richiama sempre un'immagine da picnic di Ferragosto e nella tana del diavolo non era diverso. Sembrava che il prato fosse in combutta con lui e lo assecondasse nel suo atteggiarsi a fenomeno di tutti i giorni. Non uno stelo bruciacchiato, non un trifoglio riarso e il fiore abbandonato a terra appassiva in modo più che naturale. Eppure lì c'era stato Satana. L'artefice di tutti i mali, l'essere i cui pensieri sono tenebre, le cui radici affondano nell'inferno. Non c'era azione troppo ignobile per lui, né strumento troppo meschino. Per compiere le sue nefandezze era persino entrato in un bricco di latte e ne era emerso imperturbabile, imperscrutabile, quella sconfinata dignità che deriva da un comportamento naturale e da un appagamento che non conosce intralci. Questo modo di essere, un personaggio veramente totale, un perpetuo fiorire di potere e scaltrezza da una volontà indivisa, bastava a costituire il fascino e la maestà del demonio. Non c'era bisogno di un manto di terrore per accrescerne la statura e immaginarlo capace di indagini speculative o di metafisica sarebbe stato come offrirsi di incoronarlo con qualche stelo di paglia. Molto probabilmente era piuttosto stupido. Quando l'aveva interrogato sulla morte, lui si era alzato e se n'era andato, il che faceva pensare che non sapesse sull'argomento molto più di quanto ne sapesse lei. In effetti, essendo immortale, era improbabile che ne sapesse anche solo quanto lei. La sua mente rifletteva invece costantemente sul paesaggio e sulle svariate nature degli uomini. Era una mente che non dimentica e non sceglie. Certo, proprio per questo. E allora balzò in piedi per l'eccitazione e cominciò ad agitare le braccia. Lui era il diavolo, il nemico delle anime. La sua memoria era troppo estesa, troppo capiente. Non c'era modo di pacificare la sua testimonianza né di schermarla con il presente. E questo era il motivo per cui, arrivati a un certo stadio della loro civiltà, gli uomini avevano dichiarato che egli era l'incarnazione di ogni male, e poi non molto più tardi che non esisteva affatto. Per un istante Elora pensò di averlo in pugno, ma un attimo dopo, come se lui fosse riuscito a divincolarsi, i suoi pensieri si dissolsero nell'improvvisa consapevolezza di una sorta di spasmo nell'aria. Il sole era tramontato, infilandosi all'improvviso dietro le colline. Ciò significava che se n'era andata anche la corriera e allora non poteva sperare di raggiungere né l'uno né l'altra. Prima Satana, poi il sole, la corriera. Addio, mia gente! Le sembrava di salutarli con affettuosa indifferenza, contenta che l'avessero lasciata sola a varcare la soglia della nuova indipendenza sanzionata dalla loro dipartita. La notte era a sua disposizione. Poteva tornare a piedi a Great Mope e arrivare molto tardi, oppure dormire all'aperto senza preoccuparsi di rincasare sino al giorno dopo. Qualsiasi cosa avesse fatto, Mrs. Leek non avrebbe avuto niente da ridire. Quello era uno dei vantaggi dell'avere a che fare con le streghe. Loro non ci trovano niente di strano se ti comporti in modo un po' stravagante. Non ti guardano con severità se fai tardi a pranzo. Non si preoccupano se resti fuori tutta la notte. Non ti subissero di domande e recriminazioni quando alla fine rincasi. Che piacere stare di fianco a persone che preferiscono i loro pensieri ai tuoi. Che piacere vivere assecondando il proprio dolce volere. Che piacere dormire fuori per una notte intera. Ormai aveva quasi deciso. Era un'avventura. Non aveva mai fatto niente di simile, eppure le sembrava perfettamente naturale. Non avrebbe dormito lì. Wickendon era troppo vicina. Un po' più tardi, quando ne avesse avuto voglia, si sarebbe messa in cerca di un bel fosso asciutto o di un mucchio di fieno scomposto e compiacente. Oppure, aprendosi un varco fra le foglie morte dell'autunno e le feci della primavera, sarebbe penetrato in un bosco e si sarebbe scavata un letto. Forse Satana, nei suoi vagabondaggi, si sarebbe imbattuto in lei e avrebbe sorriso vedendola così serena e sicura sotto la sua perniciosa protezione. Ma non l'avrebbe disturbata. Perché avrebbe dovuto? L'inseguimento era finito, per quanto la riguardava. Poteva dormire dove voleva. Una cerva accoccolata nella tana del diavolo, una strega affrancata dalla custodia del suo signore, mentre lui, insonne e furtivo, era già sulle tracce di un'altra preda. Non l'avrebbe disturbata. Un'oscurità più fitta sul suo sonno, una voce più profonda nel mormorio delle foglie sopra di lei. Solo questo avrebbe conosciuto del suo sguardo, che non desidera e che non giudica, di quel suo modo appagato, ma nel profondo indifferente, di essere padrone. Fine.